democrazia, libertà, giustizia, verità. Proviamo a ricominciare dalle parole. Quando la coscienza morale di un paese arriva a precipitare tanto da non rendersi neanche più conto del fatto che sta toccando il suo punto più basso, queste parole diventano vuote e cupa è la voce che le pronuncia. Allora diventa difficile anche pensarle, quelle parole. Troppe parole buone, giuste, servono cause ingiuste e malvagie. Troppe parole compromesse, parole complici di stupro e assassinio di se stesse. Ci vorrebbe una rinascita, ci vorrebbero uomini e donne che si rifiutino di cedere alla contraffazione del senso, uomini e donne che non si rassegnino ad affliggersi nel silenzio, donne e uomini che non accettino di smarrirsi nel vociare confuso. Ci vorrebbero uomini e donne. C'è una donna, un'ebrea francese, una filosofa, un'operaia, una rivoluzionaria, una contadina. C'è una giovane donna che prova a immaginare la verità nella sua dimensione pubblica e si sforza di improntarla a una qualche idea di giustizia e di libertà. C'è una donna che vive i pensieri che dice e pensa le parole che vive, senza compromissioni. Simone Weil, nel 1943, poco prima di morire di tubercolosi a soli 34 anni, lascia tra gli ultimi scritti queste parole. Il partito. Cominciamo dalla parola. Usiamola per quello che è, nel significato che essa ha assunto per noi. Perché nel mondo anglosassone, ad esempio, la stessa parola party indica una realtà completamente diversa, il cui significato è impossibile da trasporre. Una realtà di matrice aristocratica, dove quasi si ravvisano elementi di sport, di gioco. Party. Tutto diventa serio in un'istituzione che in origine è plebea. Eppure nella Francia del 1789 l'idea stessa di partito era concepita esclusivamente come un male da evitare, fin quando il club dei Giacobini, dal luogo di libera discussione qual era, si trasformò in partito totalitario sotto la pressione della guerra e della ghigliottina. Un partito al potere e tutti gli altri in prigione! Per questo in Europa il totalitarismo è il peccato originale dei partiti. L'eredità del terrore e l'esempio inglese li hanno insediati nella vita pubblica europea, ma il fatto che questi, i partiti, esistano non è un buon motivo perché vengano conservati. Il male dei partiti politici salta agli occhi, ma ciò che noi dobbiamo esaminare e se in essi ci sia un bene che abbia la meglio sul male e che renda perciò la loro esistenza desiderabile. Chiediamoci se in essi ci sia anche solo una particella infinitesimale di bene o se altrimenti non sono forse male allo stato puro. Perché se così fosse, certo, non potrebbero produrre altro che male. Un albero cattivo non può produrre frutti buoni e viceversa. Purtuttavia, nella membrana sottile di questo fragile fiore c'è un veleno e c'è una medicina. Perché se lo annusi ti conforta i sensi col suo dolce profumo, ma se ne mangi resta il cuore e la vita. Intendiamoci, un gulag è un male assoluto. Ciò non toglie che in esso possa avvenire qualcosa di buono, grazie alla presenza di anche un solo uomo illuminato. Eppure il gulag non sarà mai un bene. Il bene. Shakespeare fa dire al frate di Romeo e Giulietta che non c'è nulla sulla terra di così cattivo che non renda alla terra qualcosa di buono, né alcuna cosa tanto buona che, usata malamente, non si rivolti contro la sua stessa natura e diventi cattiva. La virtù stessa diventa vizio e il male talvolta può elevarsi sino a diventare il bene. Ma cosa è bene? Qual è un criterio del bene che noi possiamo riconoscere, condividere? Non può essere rappresentato che dalla verità, dalla giustizia e solo secondariamente dalla pubblica utilità. La democrazia, il potere della maggioranza non sono un bene, sono mezzi in vista del bene. Se al posto di Hitler la Repubblica di Weimar avesse deciso per vie parlamentari, legali, di rinchiudere gli ebrei nei campi di sterminio e di torturarli con metodi raffinati sino alla morte, quelle torture non avrebbero avuto un atomo di legittimità più di quanta non ne abbiano avuta nel Terzo Reich. Solo ciò che è giusto è legittimo. Il crimine e la menzogna non lo sono mai. Se noi siamo abituati a pensare che la democrazia sia un bene assoluto, è forse perché ci siamo affezionati a qualcosa o a qualcuno? Se noi ci siamo abituati a pensare che la democrazia sia un bene assoluto, al punto da considerare scandaloso l'assunto contrario, è perché ci siamo affezionati a un'idea. Ma di quella idea abbiamo smarrito il senso originario. Il nostro ideale repubblicano deriva interamente dalla nozione di volontà generale espressa da Rousseau nel Contratto sociale, un libro bello, forte, chiaro, lucido, influente come pochi altri. Eppure tutto è accaduto e continua ad accadere come se non fosse mai stato letto. Rousseau parte da due certezze. La prima è che la ragione discerne e sceglie sempre la giustizia e l'utilità innocente, mentre qualunque misfatto trae origine esclusivamente dalle passioni. Dalle passioni. D'ora in avanti useremo questo termine in un'accezione certo non positiva, indicando con esso quella parte dell'anima che agisce d'impulso, senza una mediazione, senza discernimento. La seconda certezza è che la ragione è uguale in tutti gli uomini, mentre le passioni, il più delle volte, sono diverse. Quindi, se su un problema qualsiasi ognuno riflette in solitudine ed esprime un'opinione, e se in seguito queste opinioni vengono confrontate fra di loro, esse coincideranno per ciò che di vero e di ragionevole c'è in ognuna, mentre differiranno per ciò che è ingiusto, insensato. È solo in virtù di un ragionamento del genere che si può ammettere che il consenso universale indichi la verità. La verità è una. La giustizia è una. Gli errori e le ingiustizie sono variabili all'infinito. Gli uomini si uniscono nel vero e nel giusto, mentre nel crimine e nella menzogna non possono che dividersi. E poiché l'unione è una forza materiale, si può sperare di trovarvi una risorsa che consenta alla verità e alla giustizia di essere materialmente più forti del crimine e della menzogna. Basta trovare il meccanismo adatto. Se la democrazia costituisce tale meccanismo è buona, altrimenti... altrimenti no! Agli occhi di Rousseau, e come potremmo dargli torto, un volere ingiusto comune a tutto un popolo non è in alcun modo migliore del volere ingiusto di un singolo uomo. Lui pensava solamente che, nella maggioranza dei casi, un volere comune a tutto un popolo è nei fatti conforme alla giustizia, per via della reciproca neutralizzazione e compensazione delle passioni individuali. Solo in virtù di questo il volere di un popolo è preferibile al volere di un individuo. Immaginiamo una massa d'acqua in uno stato di perfetto equilibrio. Malgrado le particelle da cui sono composte le sue molecole si muovano e si urtino senza sosta, un tale specchio d'acqua riflette perfettamente l'immagine degli oggetti, così come lascia scorgere esattamente la forma di ciò che vi è immerso. Mostra una superficie orizzontale. Se individui esposti alle passioni, dunque inclini alla menzogna, all'errore, come quelle molecole si compongono in un popolo vero e giusto, allora è bene che il popolo sia sovrano. Una costituzione democratica è buona se per prima cosa realizza nel popolo questo stato di equilibrio e solo dopo fa in modo che le volontà del popolo siano eseguite. Il vero spirito del 1789 consiste nel considerare non che una cosa è buona e giusta perché la vuole il popolo, ma che a determinate condizioni la volontà di un popolo abbia maggiori possibilità di qualsiasi altra volontà di essere conforme alla giustizia. E tra le tante condizioni necessarie perché si possa ricorrere al concetto di volontà generale, due in particolare meritano attenzione. La prima è che nel momento in cui un popolo concepisce ed esprime una sua volontà, in esso non sia presente alcuna specie di passione collettiva, che è un impulso verso il crimine e la menzogna infinitamente più potente delle passioni individuali, perché gli impulsi nocivi, non potendosi neutralizzare a vicenda, si innalzano all'ennesima potenza, come una massa d'acqua travolta da una corrente impetuosa e violenta che non ha più una superficie orizzontale, non riflette né rivela alcunché, e poco importa che a muoverla sia una oppure tante correnti che si scontrano in un vortice sempre più impetuoso. Se una passione collettiva si impadronisce di un popolo, esso tutto sarà unanime nel crimine. Se lo stesso popolo sarà diviso in tante passioni collettive, esso si spaccherà in altrettante bande criminali l'una contro l'altra armata. La lotta esacerbata, il clangore infernale renderanno impossibile percepire la voce della giustizia e della verità. Laddove un paese è preda di una passione collettiva, è molto probabile che qualsiasi volontà individuale sia più vicina alla verità e alla giustizia della volontà generale, o meglio, della sua caricatura. La seconda condizione è che il popolo sia chiamato a esprimere il proprio volere riguardo alle grandi questioni della vita pubblica e non solo a effettuare una scelta di persone, tantomeno una scelta di gruppi irresponsabili. Perché una scelta di questo genere non può avere nessuna relazione con la volontà generale. La sola enunciazione di queste due condizioni dovrebbe farci capire che noi non abbiamo mai conosciuto nulla che si avvicini neppure alla lontana alla democrazia. La cosa alla quale attribuiamo questo nome è una realtà nella quale il popolo non ha mai l'occasione né gli strumenti per esprimere un parere su alcuna questione della vita pubblica, e tutto ciò che sfugge agli interessi particolari è dato in pasto alle passioni collettive, che vengono sistematicamente, istituzionalmente incoraggiate. Non si può neanche pensare di parlare di democrazia, di repubblica, senza dare al popolo l'opportunità di prendere posizione sui grandi temi della vita pubblica, senza che in esso prenda il sopravvento la forza caotica delle passioni collettive. Non è facile concepire soluzioni reali a questi problemi, ma a pensarci bene, qualsiasi soluzione implicherebbe il superamento dell'idea di partito. Iscrivetevi a un partito, non dico al mio partito, che pure accoglie tutti, dico in piena libertà, iscrivetevi a un partito qualsiasi, prendetevene la tessera, partecipate alle sue attività, candidatevi. Se manterrete lucidità e indipendenza di giudizio, potrete testimoniare alcune evidenti verità di fatto, e cioè che un partito è una macchina per fabbricare passioni collettive, che un partito politico fa in modo da esercitare una pressione collettiva sul pensiero degli uomini che ne fanno parte, che il fine ultimo di un partito politico è la sua propria crescita, senza alcun limite. Potrete verificare da vicino come ciascun partito sia totalitario, in nuce o nelle aspirazioni, se non lo è nei fatti, è solo perché gli altri partiti non lo sono da meno. Il fine di un partito politico è la sua propria crescita, senza alcun limite. A ben vedere, questo è solo un caso particolare di un fenomeno più generale, che si verifica sempre quando la collettività prende il sopravvento sull'essere pensante. Si assiste allora a un rovesciamento della relazione tra mezzi e fini, un sovvertimento che diventa legge di ogni società oppressiva e che sconfina in qualsiasi campo, oltre ogni latitudine. Gli scienziati non usano la scienza per vedere più chiaro nel loro pensiero, ma aspirano a dei risultati che possano aggiungersi alla scienza costituita. Le macchine non funzionano per permettere agli uomini di vivere. Al contrario, ci si rassegna a nutrire gli uomini perché servano le macchine. L'organizzazione dei rapporti sociali, il cui volto ipertrofico è la burocrazia, non favorisce le relazioni tra gli individui, ma li assoggetta. Il denaro non è più uno strumento comodo per scambiare prodotti, viceversa, è il flusso delle merci a costituire un mezzo per far circolare denaro, che non rappresenta più nulla se non se stesso. La moneta, i simboli del credito, hanno spodestato le cose reali dalla loro funzione di realtà. Come nella fiaba di Andersen, nella quale l'ombra e l'uomo che la riflette hanno invertito il proprio ruolo. Sempre e ovunque, tutte le cose generalmente considerate come fini sono, per natura, per essenza, esclusivamente mezzi. Il denaro, il potere, la crescita economica, il prestigio nazionale, i titoli di studio. Esclusivamente mezzi. Solamente il bene è un fine. Tutto ciò che appartiene all'ambito dei fatti è un mezzo. Ma il pensiero collettivo non riesce a trascendere l'ambito dei fatti e commette così l'errore di identificare ciascun mezzo con il bene assoluto. La stessa cosa accade con i partiti. Un partito in linea di principio è uno strumento, un mezzo destinato a servire una certa concezione del bene pubblico. Ma questa concezione è sempre estremamente vaga. È un fatto questo che accomuna tutti i partiti, dai più inconsistenti ai più rigidamente organizzati, tutti identici quanto a vaghezza della dottrina. Può sembrare paradossale, ma l'espressione dottrina di un partito politico non può mai avere alcun significato. Una dottrina non è merce a buon mercato. Un uomo passasse la sua vita intera a studiare, a pensare, non ce l'ha che di rado. Una collettività non ce l'ha mai, né potrebbe mai avercela. Si può parlare, è vero, di dottrina cristiana, di dottrina indù, di dottrina pitagorica, ma ciò che viene designato da questo termine non appartiene né a una dimensione individuale né a una dimensione collettiva, ma si eleva infinitamente al di sopra di entrambe. È puramente e semplicemente la verità. La verità. Quale sforzo dovrebbe fare un partito per avvicinarsi ad essa solo un poco? Uno sforzo tale da cessare di esistere. Il fine di un partito politico è dunque qualcosa di indefinito, di irreale. Se fosse reale richiederebbe un enorme sforzo d'attenzione, perché una concezione del bene pubblico non è cosa facile da elaborare. L'esistenza del partito invece è evidente, palpabile. È inevitabile così che il partito finisca per costituire esso stesso il suo proprio fine, come Dio, se non è idolatria questa. Partiamo dal presupposto che per servire la concezione del bene in vista del quale è stato istituito, eccetera, eccetera, eccetera, un partito debba disporre di una grande quantità di potere. Ma nessuna quantità finita di potere potrà mai essere considerata sufficiente, soprattutto una volta acquisita. Ogni partito si trova quindi, per effetto della propria assenza di pensiero, in uno stato continuo di impotenza, e lo attribuisce costantemente all'insufficienza del potere di cui dispone. Fosse anche il padrone assoluto del paese, le necessità internazionali gli imporrebbero limiti troppo ristretti. È per questo che la natura essenziale dei partiti tende al totalitarismo, e non solo rispetto alla nazione, ma rispetto all'intero globo terrestre. È proprio perché la concezione del bene pubblico a cui si illudono di aspirare è in realtà una finzione, una cosa vuota. Essa stessa impone la ricerca illimitata del potere totale, eppure tutto ha un limite. Solo ciò che non esiste del tutto non è in alcun modo limitabile. Esiste dunque un'affinità tra totalitarismo e menzogna. Certo, possedere un potere totale, assoluto, universale è un'idea spaventosa. Per sostenerla bisognerebbe avere o presumere di avere una certa grandezza. È possibile? In realtà, tutte le persone che si avvicinano a un partito non concepiscono mai un'idea così assoluta. Si accontentano di auspicare la crescita del loro partito, ma come qualcosa che proceda indefinitamente ed esponenzialmente nella stessa direzione. Potrebbero mai concepire che il loro partito ha troppi iscritti, troppi elettori, troppi eletti, troppo denaro? No. Quindi, anche senza rendersene conto, questa crescita indefinita del partito diviene l'unico criterio in base al quale si misura in ogni cosa il bene e il male. Ma se si possiede un criterio del bene diverso dal bene, si perde la nozione di bene. Ma se criterio del bene si identifica con crescita smisurata, effetto inevitabile sarà una pressione collettiva sul pensiero degli uomini. Nei fatti questa pressione esiste, è mostrata, è proclamata, dovremmo inorridire, se l'abitudine non avesse reso insensibili le nostre anime. I partiti sono organismi pubblicamente, ufficialmente costituiti in modo tale da uccidere nelle anime il senso della verità e della giustizia. La persuasione è il fine ultimo della propaganda, non la verità. Ciò che con la propaganda si vuole ottenere non è educazione, ma addestramento. Non è coscienza, ma asservimento dello spirito. Signore e signori, colleghi deputati, cittadini, d'ora in avanti, ogni qualvolta mi troverò dinanzi a una questione politica, economica, sociale, io mi impegno a dimenticare radicalmente di appartenere a questo partito. D'ora in avanti, di fronte a qualsiasi decisione, io mi preoccuperò esclusivamente di discernere ciò che è bene per tutti, ciò che è giusto per tutti. So che un pensiero come questo non è mai stato espresso. So che le parole che ho appena pronunciato possono valermi l'espulsione dal mio gruppo, la delegittimazione, addirittura l'accusa di tradimento. So che molti di voi penseranno: ma allora perché ha deciso di aderire a quel partito? Come se solo per questo fossi dispensata dal discernere la verità, la giustizia, il bene di tutti. Non mi è possibile pensare altrimenti da quando ho riconosciuto che esiste la verità, che mi obbliga a formulare certi pensieri non in quanto socialista o conservatore o cattolica, ma in quanto guidata dalla luce irresistibile dell'evidenza. Ho deciso di essere fedele a questa luce, perché altrimenti insinuerei il verme della menzogna dentro di me. La mia posizione mi obbliga alla verità. Non potrei in nessun caso dire in nome del mio partito cose che reputo contrarie alla verità e alla giustizia. Finirei comunque per mentire a qualcuno, a me stessa, ai cittadini, al partito. Ritengo di tutte queste menzogne l'ultima la meno nociva. Sappiate in ogni caso che non intendo abdicare alla mia coscienza in nome di nessun partito. Quando Ponzio Pilato chiede a Cristo che cosa è la verità, Cristo non risponde. Aveva già risposto prima. Sono venuto a testimoniare la verità. La verità, potremmo tentare questa definizione, la verità è costituita da quei pensieri che sorgono nello spirito di una creatura pensante che sia unicamente, totalmente, esclusivamente desiderosa della verità. La menzogna o l'errore, che sono sinonimi, sono i pensieri di coloro che non desiderano la verità o che magari desiderano la verità e insieme ad essa qualcos'altro, ad esempio la conformità a un pensiero prestabilito. Certo, pensare la verità significa sprofondare nel mistero. Come avvicinarsi ad essa senza saperne nulla? Ma qual è la verità? È quello che penso io di me? O quello che pensa la gente? O quello che pensa quello là lì dentro? Cosa senti dentro di te? Concentrati bene. Cosa senti, eh? Sì, sì, si sente qualcosa che c'è. Quella è la verità. Ma non bisogna nominarla. Perché appena la nomini, non c'è più. Io credo che solo desiderando la verità a mente sgombra, senza tentare di anticiparne i contenuti, solo così si riceve la luce. A questo si riduce l'intero meccanismo dell'attenzione. Come conciliare allora, quando si esaminano i problemi spaventosamente complessi della vita pubblica, la necessità di discernere la verità, la giustizia, il bene di tutti e contemporaneamente la necessità di mantenere un atteggiamento che rispecchi l'adesione a questo o quel partito? La facoltà di attenzione umana non è in grado di sostenere in simultanea queste due preoccupazioni. E difatti, chiunque si avvicini all'una e si dedichi ad essa, abbandonerà l'altra. Coloro che sceglieranno la verità avranno l'anima inondata di luce. Certo, nessuna sofferenza attende chi abbandona la verità, mentre il sistema dei partiti colpisce e punisce duramente i non allineati, con penalità assai severe che toccano quasi tutto: carriera, onore, sentimenti, amicizie, talora persino la vita familiare. Il Partito Comunista ha portato questo sistema alla sua perfezione. E l'esistenza di penalità falsa la riflessione. Sempre in ogni caso non c'è soluzione o compromesso possibile. Se un uomo che deve seguire calcoli numerici sa che verrà frustato ogni qualvolta troverà un risultato pari, anche se la sua anima è desiderosa della verità, ci sarà sempre una piccola parte di essa che lo spingerà a trovare un risultato dispari. Volendo reagire invece, volendo resistere, sarà portato a trovare risultati pari anche là dove non dovrebbero esserci. In ogni caso il suo discernimento sarà condizionato. Se i calcoli che deve eseguire sono talmente complessi da richiedere la pienezza della sua attenzione, il risultato sarà che sbaglierà molto spesso. Che fare? L'unica alternativa che ha è fuggire, se può, da coloro che lo minacciano con la frusta. Meglio ancora sarebbe stato evitare di cadere nelle loro mani. La stessa cosa accade con i partiti. Possibile che non ci sia un modo per interessarsi efficacemente agli affari pubblici di un paese se non passare dal laminatoio dei partiti ed essere così presi da preoccupazioni che, come si è visto, escludono quella del bene pubblico. I partiti sono un meraviglioso meccanismo in virtù del quale in tutto il paese non rimane un solo spirito in grado di discernere la verità, la giustizia, il bene di tutti. Se si affidasse al diavolo l'organizzazione della vita pubblica, non saprebbe scogitare niente di più ingegnoso. Si deve ammettere che la pressione mentale e spirituale propria dei partiti è stata introdotta nella storia dalla Chiesa Cattolica nella sua lotta contro le eresie. Un uomo che si converte al cattolicesimo o un fedele che deliberi con se stesso e decide di rimanervi vede nel dogma il vero, il bene. Ma entrando nella Chiesa, egli deve professare di non essere colpito dagli anatema sit, cioè di accettare in blocco tutti gli articoli detti di stretta fede, articoli che non conosce, anche se dotato di intelligenza, di cultura. Non basterebbe una vita intera per studiare tutti i dettami dottrinali e tutte le circostanze storiche nelle quali furono emanati. E allora, come si fa ad aderire a proposizioni che non si conoscono? È veramente cosa buona e giusta sottomettersi incondizionatamente all'autorità che quei dogmi li ha promulgati? Anche secondo il santo filosofo razionalista Tommaso d'Aquino, la risposta è sì. Lui stesso disse che le sue affermazioni si sostenevano esclusivamente attraverso l'autorità della Chiesa, perché, disse, null'altro serve a chi l'accetta e null'altro persuaderebbe chi la rifiuta. Ma così facendo, quella luce interiore, quella facoltà di discernimento data dall'alto all'anima in risposta al suo desiderio di verità, viene bandita, viene esclusa da ogni ricerca relativa al destino spirituale dell'uomo, oppure asservita alla necessità di essere conforme a un insegnamento prestabilito. Il fatto che la Chiesa di Cristo abbia così efficacemente ed ecumenicamente soffocato lo spirito di verità, e se non c'è riuscita del tutto malgrado l'Inquisizione solo perché la mistica offriva un sicuro rifugio, è una tragica ironia. Ma ironia ancora più tragica è che proprio i movimenti di rivolta contro l'asservimento degli spiriti avvenuto durante il regime inquisitorio, e cioè l'umanesimo, la riforma, abbiano contribuito a produrre, attraverso secoli di maturazione, il risultato della nostra democrazia fondata sul gioco dei partiti, ognuno dei quali una piccola chiesa profana armata della minaccia di scomunica. Chi aderisce a un partito si trova esattamente nella stessa posizione di chi aderisce all'ortodossia come la concepisce San Tommaso d'Aquino. Entrambi sottomettono la loro coscienza a un'autorità. Entrambi accettano posizioni che non conoscono e via via che le conosceranno saranno portati per forza di cose ad accettarle incondizionatamente. Come socialista penso che, come conservatore penso che, come cattolico penso, piuttosto rinuncio A pensare. Lo spirito dei partiti ha interamente contaminato la vita mentale degli uomini e donne della nostra epoca. Si è trattato di un morbo che si è propagato via via. Noi ammettiamo che lo spirito di parte acceca, che rende sordi alla giustizia, che spinge anche i più onesti ad accanirsi contro gli innocenti, lo ammettiamo. E allora perché non pensiamo a sopprimere gli organismi che fabbricano un tale spirito? Eppure vietiamo gli stupefacenti. Per coerenza dovremmo organizzarne la vendita in tutte le tabaccherie, anzi incrementarne l'uso con la pubblicità. In conclusione, dall'analisi dei fatti sembra proprio che l'istituzione dei partiti costituisca un male quasi assoluto e che sarebbe un bene allo stato puro la loro soppressione. Non porterebbe altro che effetti positivi. Nessun eletto potrebbe dire "in quanto socialista penso che", ma semplicemente "io penso questo o quello riguardo a questa o quella cosa". Ci si associerebbe e dissocierebbe secondo il naturale e mobile gioco delle affinità. Invece le posizioni preconcette dei partiti coincidono così poco con le affinità di pensiero degli individui che molte volte, su una questione qualsiasi, membri di un partito sono d'accordo con quelli del partito avversario e in disaccordo con il proprio. Quante volte ai iscritti di partiti avversi sarà preso un colpo constatando di essere riguardo a un dato problema d'accordo su tutto? È paradossale, ma è così. Il fatto realmente paradossale è che una misura così semplice, così risolutiva, potremmo dire priva di controindicazioni, come la soppressione dei partiti, non sia stata ancora presa in considerazione. Eppure essa estenderebbe le sue virtù curative molto al di là della sfera pubblica, perché le istituzioni influenzano la totalità del pensiero attraverso il prestigio che deriva dal potere. In quasi tutti gli ambiti si è ormai giunti a non pensare più se non in termini di pro o contro qualsiasi opinione, qualsiasi ragionamento è teso esclusivamente a confutarla o a sostenerla. E questa tendenza, che si irradia in tutti i campi, dalla letteratura alle arti, alla religione, dallo sport ai fatti di cronaca, è esattamente la trasposizione dello spirito di partito. Non più uomini, donne, cittadini, ma militanti. Ed è una lebbra che si è originata in ambienti politici per espandersi via via attraverso il corpo del paese alla quasi totalità del pensiero. È difficile porre fine a questa lebbra che ci sta uccidendo, se non cominciando dalla soppressione dei partiti politici. Noi non sappiamo che cosa scomparirà e che cosa continuerà della civiltà attuale, né in quali condizioni e in quale senso la storia si svolgerà. Non possiamo saperlo, ma ciò che possiamo sapere sin da ora è che la nostra vita sarà tanto meno inumana quanto più grande sarà la nostra capacità di pensare e di agire. La nostra civiltà, della quale i figli dei nostri figli riceveranno in eredità dei frammenti, contiene già, e lo sappiamo fin troppo bene, quanto basta per schiacciare l'uomo, ma contiene anche, almeno in embrione, qualcosa che può liberarlo? La realtà del nostro mondo è fondata sulle differenze, ma esistono realtà fuori da questo mondo, al di là del tempo e dello spazio, oltre l'universo mentale dell'uomo, esistono realtà distanti anni luce dal mondo dei fatti e delle necessità. C'è una realtà che abita nel centro del cuore di ogni uomo e che risponde a un'esigenza di bene assoluto. È da questa realtà che discende ogni bellezza, ogni verità, ogni giustizia, ogni legittimità, ogni ordine, ogni armonia. Ogni uomo ha il potere di volgersi verso questa realtà con tutta la propria attenzione, con tutto il proprio amore. È in questo che può rinsaldarsi un legame fra gli uomini tutti, senza eccezione. Chiunque riconosce questa realtà, riconosce questo legame e considera l'altro come qualcosa di sacro, a cui testimoniare rispetto e a cui destinare tutto il bene possibile.